Ce lo prendiamo in mano il nostro libro di catechesi, il falsario, intitolato La lotta quotidiana contro Satana, edizione La Sugarco, lo potete trovare in tutte le librerie cattoliche. Chi facesse fatica a trovarlo può sempre scrivere qui a Radio Maria oppure telefonare qui a Radio Maria. Dicevo, questo qui è un libro scritto contro Satana, quindi vorrei sottolineare questo aspetto di lotta contro Satana che caratterizza la vita cristiana, la quale, come abbiamo già ampiamente detto, ha tre nemici: sono il mondo, la carne e il demonio. Solo che il demonio fra questi nemici è quello che si vede di meno, perché sta nascosto dietro il mondo e dietro anche la nostra carne, per cui il parlarne è doveroso. Il parlarne è doveroso. Anzi, se, cari amici, non c'è dubbio che uno dei grandi successi del demonio nel nostro tempo consiste nel fatto che se ne è parlato poco, che non se ne è parlato affatto, che se ne è parlato male. Quindi del demonio bisogna parlarne, però bisogna parlarne bene. Non che bisogna parlare bene del demonio, bisogna parlare nei termini appropriati, quindi senza, non so come dire, non in termini né sciocchi, perché il demonio non è un povero diavolo, e non se ne parla neanche in termini paurosi, perché non bisogna mai dimenticare che Cristo ha vinto il demonio. Ecco, bisogna parlare in termini appropriati. Come si fa a parlare del demonio in termini appropriati? Lo si fa prendendo come base i testi biblici e l'insegnamento della Chiesa. Allora, noi dai testi biblici e l'insegnamento della Chiesa abbiamo colto, cari amici, la natura del demonio. È una natura estremamente pericolosa. Infatti la Bibbia usa le immagini che sappiamo, quella del serpente, quella del drago infuriato, quella del rione ruggente. E Cristo ha nel confronto del demonio espressioni fra le più brutali che ci siano, cioè menzognero, padre della menzogna, omicida fin dall'inizio, sono parole di Cristo, no? Per cui noi cerchiamo di cogliere questa natura profonda del demonio, che è animato da un odio inestinguibile nei confronti di Dio, animato da una gelosia nei confronti dell'uomo. La parola stessa Satana vuol dire avversario, è l'avversario di Dio. E la parola diavolo vuol dire colui che ostacola, ed è colui che ostacola i piani di Dio nei confronti dell'uomo. Quindi avversario di Dio, nemico dell'uomo. E soprattutto quello che è l'obiettivo del nostro libro è mostrare come l'attività di Satana si concentri soprattutto nella tentazione. Questa è l'attività con cui tutti abbiamo a che fare. Quindi anche dire, io del diavolo non mi voglio occupare. Figliolo caro, se tu non ti vuoi occupare del diavolo, d'accordo, ma è lui che si occupa di te. Cioè, come uno dicesse, io dei ladri non voglio saperne. Va bene, d'accordo, ma se loro vengono ad assaltarti la casa, dovrai pure difenderti, no? Ecco, e quindi quindi, però ecco, la consapevolezza di questo nemico così insidioso non deve indurci alle angosce, alle paure, perché io non ho perso affatto nel buon umore, nell'allegria, nello scrivere questo libro contro Satana, che è certamente un libro che per lui è un brusco nell'occhio, perché cioè è un libro che non lo si può contestare, perché è basato sulla Bibbia e sul magistero della Chiesa, quindi nessuno può dire niente. Questa è la dottrina cattolica su Satana, né più né meno. E quindi per lui è un brusco nell'occhio, ma non è che ho perso il buon umore. Non ho perso affatto nel buon umore, anzi, casomai, devo dire che proprio nello studio ho preso la consapevolezza gioiosa di questa grande vittoria di Cristo sul male, che deve essere accompagnata anche, naturalmente, dalla nostra vittoria. Cioè la vittoria di Cristo deve realizzarsi in noi, la vittoria di Cristo sul male. D'altra parte, nessuno è sulla via giusta, cioè sono tutti sulla via sbagliata, tutti coloro che cercano di togliere l'aspetto di combattimento spirituale che ha il cristianesimo. Sono sulla via sbagliata. Lo dice Gesù, il regno dei cieli patisce violenza e i violenti se ne impadroniscono. Cioè la vita cristiana è una lotta. Quindi togliere dal cristianesimo l'aspetto di combattimento spirituale contro i nemici classici, cioè la carne, il mondo e il demonio, significa svuotare il cristianesimo. È in atto questo tentativo, del cristianesimo che viene presentato come una forma di consolazione e basta. Sì, certo che è una consolazione, ma è una consolazione che Dio consola chi lotta per lui e con lui. Ma presentare l'aspetto esclusivamente consolatorio del cristianesimo, togliendo il combattimento spirituale, significa dare ragione a Marx, il quale diceva che la religione è l'oppio dei popoli. Cos'è l'oppio? Una specie di droga che uno prende per star bene. Scherziamo. Il cristianesimo non è solo consolazione. Diciamo che attraverso il combattimento spirituale uno ha una grande pace. Uno sente l'amore e la benedizione di Dio. Però, insomma, è chiaro che bisogna fare lo sforzo di aprire il cuore a Dio se vuoi gustare la consolazione del suo amore. E così è sulla strada sbagliata, completamente sbagliata, chi vuol togliere dal cristianesimo la croce. Anche nell'ultimo messaggio della Regina della Pace, che pure introduceva il tempo d'avvento, il tempo del Natale, il tempo di grazia del Giubileo, la Madonna cosa ha detto? In questo tempo di grazia la croce sia per voi il segno indicatore dell'amore e dell'unità, attraverso le quali viene la vera pace. Quindi togliere dal cristianesimo l'aspetto di combattimento spirituale e togliere la via del Calvario significa svuotare il cristianesimo. E quindi vedete che si tratta di tematiche che sono assolutamente pertinenti alla nostra vita cristiana. Noi abbiamo cercato, col capitolo quarto, intitolato L'avversario di Dio, di capire qual è la natura del demonio. È una natura perversa. Il demonio è un essere perverso, perverso. Ha pervertito completamente se stesso. Da buono che era, si è pervertito in che modo? Rifiutando Dio e il suo amore e volendo essere lui Dio al posto di Dio. Si è eretto contro Dio e si è pervertito. Lui è la perversione. Il demonio è la perversione. Il demonio è il male. Io vedo con piacere che ci sono così delle persone, anche ho letto qualche tempo fa, proprio su qualche giornale, un articolista, un giornalista che scriva la parola il male con la lettera maiuscola, molto pertinente. Cioè, voleva dire che il male, nella sua radice, è proprio Satana. Lui è il male, è la perversione. È la perversione. Come diceva Paolo VI, è il pervertito che perverte gli altri. Noi abbiamo visto di questo pervertito che perverte gli altri, abbiamo visto come, nelle ultime catechesi, come si oppone con tutte le sue forze ai piani di Dio nei confronti dell'uomo. Cioè, la rivelazione divina della Bibbia, a partire dal paradiso terrestre fino alla fine dei tempi, ci mostra questo essere intelligente, perverso, che si oppone con tutte le sue forze ai piani di Dio. guardate che coloro che hanno cercato di dire che Satana non esiste, o che hanno cercato di, parlo dei teologi naturalmente, io conosco dei teologi e dei biblisti che parlano da 10, 20, 30 anni senza mai nominare la parola demonio. Io mi chiedo, scusate, ma la Bibbia, che Bibbia, di che edizione è la vostra Bibbia? Non so io. Perché se tu apri la Bibbia, alla prima pagina si parla del serpente che seduce Adamo ed Eva. Se per il Nuovo Testamento, alla prima pagina si parla del di Satana che cerca di sedurre Gesù Cristo, se prendi la Bibbia nell'ultima pagina si parla della vittoria di Cristo su Satana e il fatto che Satana e tutti i suoi seguaci verranno sbattuti nello stagno ardente di fuoco e di zolfo. Come si può essere un biblista? Io dico, come può essere uno un biblista e non vedere che l'oppositore, cioè Satana, l'avversario, il diavolo, l'oppositore, è costantemente presente nella Bibbia nei momenti chiave, dal primo all'ultimo minuto, nei momenti chiave, parlo nel momento del primo Adamo, del secondo Adamo, della redenzione e della vittoria finale sul male. Come può uno essere un biblista se, dico, non mette in evidenza quei passi del Nuovo Testamento dove Gesù Cristo dice che è venuto per scacciare Satana? Ecco, il principe di questo mondo sta per essere scacciato fuori. Come non vedere la conclusione della storia come la vittoria di Cristo sul maligno? Questo è attestato nell'Apocalisse, ma anche nei Vangeli. Non dice forse Gesù, via da me maledetti nel fuoco eterno preparato per il diavolo e per i suoi angeli? Allora, ci si chiede come si sia potuto tacere su una tematica così ampiamente presente nella storia della salvezza. Noi parlando, siamo a pagina 29, cari amici, parlando di Satana, oppositore dei piani di Dio, abbiamo visto che la Bibbia ci mostra questa presenza continua, permanente, infaticabile, durante tutto il corso della storia della salvezza. Dal momento in cui questa storia della salvezza inizia con la creazione dell'uomo, fino al momento finale della sua conclusione, cioè all'inizio e alla fine c'è il demonio. All'inizio c'è il demonio che vince, alla fine c'è il demonio che è sconfitto definitivamente, al centro c'è la vittoria di Cristo su Satana, anche se poi naturalmente il tempo della Chiesa, quello che va a fare la prima e la seconda venuta di Cristo, è il tempo in cui il maligno è lasciato libero, ma sapete perché è lasciato libero? Perché noi possiamo umiliarlo. Perché noi possiamo vincerlo. E l'Apocalisse è il libro di questa battaglia fra la donna vestita di sole, cioè Maria e la Chiesa, da una parte, e il dragone infuriato dall'altra. E noi vediamo come, anche dopo la sconfitta di Cristo, il dragone è inesauribile. Dopo aver fatto cadere la prima copia, e quindi aver conseguito un grande potere sull'umanità, cerca in tutti i modi di sedurre Cristo, ma dopo che non è riuscito a divorare Cristo, come dice il capitolo 12 dell'Apocalisse, ecco che il dragone infuriato si lancia contro la donna. È il tempo della storia della Chiesa, il tempo delle seduzioni della Chiesa, il tempo delle persecuzioni della Chiesa. Ecco perché la Chiesa, qui su questa terra, nel suo pellegrinaggio, percorre la via del Calvario. Perché è stato concesso al maligno di perseguitarla, di insidiarla. La Chiesa è ognuno di noi, ma per quale motivo, cari amici? Perché noi potessimo umiliarlo. Perché noi potessimo sconfiggerlo. Se non si comprende questo, guai a noi, cari amici. Quindi, il tempo di grazia, che va fra la prima e la seconda venuta di Cristo, è il tempo in cui il dragone è infuriato più di prima, perché sente che ha i giorni contati. E la sfida è diventata ancora più tremenda, perché lui, superbo com'è, non accetta che, tra virgolette, i santi, cioè le anime pure, lo sconfiggano, lo vincano. Non accetta che le persone che lui ha già sedotto e di cui si è impadronito si convertano e gli sfuggano. Quindi giustamente l'Apocalisse dice che il dragone è più infuriato che mai. Nell'Apocalisse emerge tutta la rabbia di Satana per il fatto che ora gli uomini hanno il potere di vincerlo. Ed è Maria stessa che guida accanto a Cristo questa schiera di quelli che l'Apocalisse chiama i santi, per sconfiggere l'esercito del male, che è formato da Satana e da tutti coloro che negano Dio, che si ribellano a Dio, che covano l'odio nel loro cuore. Ecco, quindi dicevamo l'altra volta che il demonio odia la Chiesa, siamo a pagina 30, completiamo questo capitolo questa mattina, con la stessa forza con cui odia Dio. Come potresti spiegare diversamente le persecuzioni continue che hanno contrassegnato il cammino della Chiesa nei primi 2000 anni della sua storia? Non hai osservato come le persone che sono sotto l'influsso del maligno provano fastidio per la Chiesa e ne parlano volentieri male, qualunque cosa faccia o dica? Guardate che la Chiesa non deve farsi mai impressionare neanche degli applausi, neanche dei consensi che ha, perché noi sappiamo benissimo come il maligno abbia poi cambiato quegli osanna della Domenica delle Palme, li abbia cambiati nel crucifige del Venerdì Santo. Quindi mai farsi illusioni, mai cercare il consenso del mondo a tutti i costi, ma cercare la fedeltà a Dio. Questa è una norma per tutti noi cristiani, è una norma fondamentale per i sacerdoti in attività pastorale, è una norma fondamentale per la Chiesa. C'è il maligno, il mondo non ci ama, non corriamo lì dietro, cerchiamo invece di essere il sale della terra e la luce del mondo, no? Quindi, scrivevo, e sono ben ingenui quegli uomini di Chiesa che sperano di avere l'approvazione o l'ammirazione del mondo, che è ancora largamente sotto l'influsso del maligno. Più la Chiesa è di Cristo e più Satana la odia. Più è santa e più Satana la accusa, la diffama e la avversa. La fine dei tempi vedrà il tentativo del maligno di eliminare la Chiesa con la più grande operazione di seduzione e di persecuzione che sia mai avvenuta, come dice il Catechismo della Chiesa Cattolica, al numero 675. Ed è durante l'estremo assalto, volto a distruggere la presenza della Chiesa sulla terra, che l'esercito del male sarà accolto all'improvviso dalla venuta del giudice divino, il quale decreterà la sua definitiva sconfitta, rinchiudendolo per sempre nello stagno di fuoco e di zolfo. Vedete, cari amici, come si apre la Bibbia con Genesi 3, dove il tentatore seduce i progenitori, e con Apocalisse 20,10, quando c'è la sconfitta definitiva del male e Satana e tutti i suoi seguaci saranno rinchiusi per sempre nello stagno di fuoco e di zolfo. Ecco, noi abbiamo anche detto, però vorrei dirlo a questi cari amici, senza che si fossero paure, perché non dimentichiamo mai che abbiamo le armi della vittoria. Vedete come per esempio la regina della pace non ha avuto paura a mostrare, per esempio nei suoi messaggi ci mette in guardia del demonio. Però perché ci mette in guardia il demonio? Mica perché abbiamo paura, mica per farci paura. La regina della pace dice affrontate e vincete Satana con il rosario in mano. Quindi, quello che abbiamo detto dell'attività del maligno nella storia della Chiesa, la sua infaticabile ferocia, questo, cari amici, va detto per noi. Cioè, fin da quando noi entriamo nell'età della ragione, Satana si avvicina a noi in tutti i modi per sviarci, per portarci sulla via del male, e cerca di stare nascosto il più possibile. È inutile che tu dica ah, ma io, cioè, non voglio pensarci, non mi interessa. Io mi ricorderò sempre una volta, un caso talmente pietoso, insomma, c'era una persona che voleva suicidarsi, no? E io gli ho detto, ma guarda che è il demonio che ti spinge al suicidio. E lui mi dice, ma no, ma io, guarda, io fra Dio e il demonio voglio essere neutrale. Dico, ma figliolo caro, tu vuoi essere neutrale, ma lui sta già leccandosi il palato per il bel bocconcino che potrà divorare. Ma, dico, e quindi, non facciamoci illusioni, cari amici, fin da quando un bambino entra nell'età della ragione, il nemico si avvicina a lui e cerca in tutti i modi, senza farsene accorgere, di portarlo sulla via del male. Di portarlo sulla via del male. Non ci se ne fa accorgere. Per esempio, noi facciamo un esempio molto concreto, perché in questi tempi, in questi giorni, se ne parla moltissimo, è cioè del disfacimento nelle famiglie oggi. Voi sapete che oggi, in questi ultimi tempi, è stato sferrato dal mondo, anche a livello dei legislatori, il più feroce attacco al matrimonio che sia mai stato portato nella storia della civiltà. Ed è una cosa che lascia sbigottiti, e questo attacco al matrimonio viene presentato con le belle argomentazioni della difesa dei diritti umani, della difesa di tutti, e nel rispetto di tutti, quindi anche le coppie omosessuali vanno protette dalla legge, promosse, eccetera, eccetera, le convivenze dove non c'è più nessun dovere, né nei confronti reciproci, né nei confronti dei figli, vengono messi sul medesimo piano degli aiuti dello Stato, del matrimonio, eccetera, no? Cioè, siamo di fronte al più grande attacco che il mondo abbia mai fatto alla istituzione del matrimonio, che, come sapete, è stato istituito da Dio Creatore. Ebbene, voi cercate invano, anche nei testi più elevati, diciamo così, anche nei testi più elevati della teologia o dell'analisi socio-religiosa, vi porteranno tanti motivi per cui si è arrivato a questo, perché oggi sono fragili, oggi sono deboli, oggi non vogliono prendere impegni definitivi, oggi la donna ha più risorse economiche, quindi se una volta stava lì adesso va via, e ti portano un sacco di motivi, no? Che cosa dice la regina della pace? La Madonna, che lei vede benissimo chi orchestra questa furiosa campagna contro il matrimonio. Cosa dice la regina della pace? Dice che Satana oggi opera per distruggere le famiglie. Se non lo dicesse lei, e attraverso di lei non lo dicessimo noi, nessuno nomina il vero regista di questa distruzione sistematica delle famiglie. Nessuno lo nominerebbe, neanche gli uomini di chiesa, che pure tanto parlano spesso della famiglia. Non lo nomino perché avrebbero paura a nominarlo, perfino. Perché i mass media direbbero, vede il diavolo dappertutto, hai capito? La Madonna dice invece che Satana oggi opera per distruggere le famiglie. Voi vedete, cari amici, quanto oggi si discute di droga. Di droga, quanto oggi si discute di droga, no? E analisi. A me ha fatto impressione una volta un prete che ha parlato per un'ora e mezza di questi drogati, del senso della vita, della libertà, di tutto, senza mai nominare una volta Dio. Stiamo freschi. Dunque, dicevo, oggi si parla tanto della droga, stiamo tutti a cercare i motivi, non motivi, perché, per come, il vuoto, il senso della vita. E la Madonna cosa ha detto? Cari giovani, cosa ha detto la Madonna? Cari giovani, tutto ciò che il mondo di oggi vi offre è passeggero, e Satana cerca di utilizzare ogni vostro momento libero per se stesso. Quali sono i vostri momenti liberi, ragazzi? Non so, forse il pub, la discoteca, eccetera. Vuole utilizzare ogni vostro momento libero per se stesso. E quindi mi ricordo una volta Suor Elvira che disse, papale, papale, dietro la droga c'è Satana. Affermazione vera al mille per mille. Ma se non fosse la regina della pace a dircelo, o qualche anima illuminata a dircelo, chi mai direbbe che è il vero regista della distruzione delle nostre generazioni per mezzo della droga? chi è il vero regista oggi della distruzione della famiglia? Il maligno e quelli che lo seguono. Chi è il vero regista della distruzione della nostra gioventù oggi? Il maligno e quelli che lo seguono. Lì si vede Satana, è la Madonna che ci ha insegnato a vedere dov'è che sta. Ma l'Apocalisse lei stessa ci fa vedere come dietro le potenze di questo mondo, dietro la Babilonia. Cos'è la Babilonia? La città. E la città, voi sapete che Sant'Agostino scrisse un libro intitolato La città di Dio, no? E così ci introduciamo all'ultimo paragrafo del nostro capitoletto qui a pagina 31, intitolato Il Regno Alternativo. Sant'Agostino scrisse un libro intitolato La città di Dio, uno dei suoi grandi capolavori insieme alle Confessioni, e Sant'Agostino dice appunto che ci sono due città, no? Misteriose, che passano attraverso il cuore dell'uomo e che si scontrano in questo mondo. Sono la città di Dio e la città del maligno. La legge della città di Dio è l'amore, la legge della città del demonio è l'egoismo. L'egoismo. Ebbene, cari amici, oggi Satana lavora per costruire la sua città e lavora con, naturalmente, i suoi strumenti, perché anche lui ha i suoi strumenti, che sono quelli che hanno posto la loro fiducia nel potere, nel denaro, nel piacere, nell'egoismo, eccetera, eccetera. Quindi lavora per questo, per costruire la sua città. Quindi il maligno, attenzione, certamente ha come fine ultimo la costruzione di un regno alternativo, che è l'inferno, dove lui possa essere Dio, il Dio delle tenebre, e possa lì sfogare tutto il suo odio e il suo rifiuto della dipendenza da Dio. Ma lui questa città la vuole già costruire qui su questa terra. Illuminante quindi è, da questo punto di vista, questo stupendo libro di Sant'Agostino, che però non vi consiglio perché è un mattone difficilissimo, però l'idea di fondo è di una grande luce, intitolato La città di Dio. Dice Sant'Agostino che già qui su questa terra le due città si confrontano. Già qui su questa terra si confrontano Gerusalemme e Babilonia. D'altra parte questa affermazione è biblica, perché Babilonia è già qui su questa terra e la Gerusalemme celeste già è anticipata qui su questa terra dalla Chiesa, ci segna l'Apocalisse. Quindi il demonio già lavora ora a costruirsi questa città delle tenebre, Babilonia, qui su questa terra. Lo fa con i suoi strumenti. Già ora vuole costruire il regno alternativo alla Chiesa, il regno alternativo a Cristo, anzi lo vuole dilatare su tutta la terra, lo vuole affermare su tutta la terra. Infatti, cosa dice la regina della pace? Volete costruire un mondo senza Dio, ma su questa strada non c'è né felicità, né futuro, né salvezza. Quindi vedete, cari amici, dove va a sfociare? Quale obiettivo, quale finalità ha questo odio inestinguibile del demonio nei confronti di Dio e questa sua attività instancabile nell'opporsi ai piani di Dio su questa terra? Qual è il suo obiettivo? È costruire già su questa terra un regno alternativo. Vuole costruire su questa terra Babilonia, perché sia da anticamera al suo regno di morte che è l'inferno. Quindi già su questa terra si confrontano le due città, la Chiesa e Babilonia. Ed è un confine, cari amici, molto misterioso, perché passa molte volte attraverso il cuore degli uomini. Perché noi quando siamo in grazia di Dio apparteniamo alla Chiesa. E quando seguiamo la via del male entriamo in Babilonia. Percorrendo la via del bene entriamo nella Chiesa. Percorrendo la via del male entriamo in Babilonia. Già qui su questa terra c'è il confronto delle due città. E Satana lavora per far sì che Babilonia prevalga nel mondo. D'altra parte, la regina della pace non dice forse che lei è venuta per costruire con noi il nuovo mondo della pace, cioè già anticipare qui su questa terra la Gerusalemme celeste mediante la costruzione della civiltà dell'amore. Quindi la finalità di Satana è costruire su questa terra Babilonia come anticipo, come preparazione di quel regno alternativo di tenebre che sarà l'inferno. Allora leggiamo questo ultimo paragrafo, Così ci spieghiamo questa attività instancabile del maligno. L'avversario di Dio, che cerca con ogni mezzo di intralciare i suoi piani di amore, cioè i piani di Dio di amore, nei confronti dell'uomo, non si limita a distruggere, ma intende costruire qualcosa per sé. Affermare che Satana costruisce significa usare una espressione impropria, perché la fatica di edificare implica sempre qualcosa di positivo. Eppure questa parola può essere usata perché il maligno non si limita a distruggere tutto ciò che è di Dio, ma cerca in tutti i modi di realizzare un regno suo in alternativa a quello di Cristo. È il regno del male, delle tenebre, della schiavitù, della bestemmia, dell'odio e della disperazione. La sua infaticabile attività è volta ad ampliare il più possibile questo regno, che sarà il suo bottino per tutta l'eternità. Egli pensa di saziare il suo odio mostrando a Dio le sue prede, che egli ha strappato col loro consenso, purtroppo. L'inferno, se da una parte è il luogo della giustizia divina, dall'altra rappresenta la sfida eterna che l'orgoglioso rivolge a Dio. La brama di realizzare il suo regno, dove lui sia il padrone assoluto in alternativa a Dio, è la molla segreta che lo rende infaticabile. È per questo che Satana non va mai in ferie. Fa come quel padrone o quel imprenditore che per realizzare la sua azienda non conosce mai il riposo. Così Satana, per costruire il suo regno alternativo, non conosce mai il riposo, è infaticabile. Ma la superbia, ancora una volta, la cieca, perché anche l'inferno può sussistere solo per una misteriosa permissione divina. Anche i diavoli e i dannati non cessano di essere creature che nel loro essere sono dipendenti da Dio. E concludiamo dicendo: guardati, caro amico, cioè vegliate, pregate, guardati, caro amico, da lasciarti intrappolare in questo regno di morte. Quando ti rendessi conto della realtà, sarebbe troppo tardi, come quei dannati raffigurati dal giudizio universale di Michelangelo, che si, quando si accorgono che fine hanno fatto, si mettono le mani nei capelli inorriditi. Qui Radio Maria, abbiamo trasmesso Il Falesario, a cura di Padre Livio, edizioni Sugarco. Prigionieri della terra.